24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Quel dittatore argentino che faceva fuori i suoi oppositori portandoli in aereo con un pallone, poi aprivano lo sportello e il pallone dice: c'è una bella giornata fuori, andate fuori un po' a giocare. Che fa ridere, ma è drammatico. Il fatto delle leggi razziali è la peggiore colpa di un leader, Mussolini, che per tanti altri versi invece aveva fatto bene. Dai, chiudiamola così, basta, è così, è Berlusconi. No, dai, non parliamo di Hitler, degli ebrei, dei figli di Berlusconi, vi prego. Vi prego, vi prego. Sono le 6:35 minuti, peraltro. Questa è 24 mattino. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione. Voglio salutare l'alpino Peter Bescapè. Voglio subito aprire il Parlamento. Io conterò di svegliarmi attorno alle 9:15 oggi. Ve lo dico. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ah, però c'è Nicole Minetti che offre il caffè. Allora, insomma, questo mi ringalluzzisce un po'. Voglio salutare subito Luisella Costamagna. Buongiorno, Luisella. Eccoci. Buongiorno. Come, a tutti voi. Come va? Tutto bene? Sei bene, sono andata a vedere Bob Dylan ieri sera, quindi sono fresca come una rosa. Ah, Bob Dylan, insomma, o quello o i One Direction praticamente. Sì, c'è poca differenza sì, effettivamente. Sì, sì. Justin Bieber, il nuovo Justin Bieber da Bob Dylan. 71 anni. Sì, sì, sì. E com'è, ancora in palla? Assolutamente sì. Poi mi è piaciuto molto che... E insomma, ero tra il pubblico insieme a De Gregori, mescolato tra la folla come un appassionato comune. Fantastico, Luisella Costamagna, De Gregori a vedere Bob Dylan. C'era anche Vincino, non lo so, per caso era a Roma. Appunto, ma perché? Infatti era a Roma. Speravo fosse da un'altra parte, devo dire. No, era proprio a Roma, Vincino. Era da un'altra parte di Roma, è grande, sai. Ah, ecco. Comunque, non lo so, volete parlare di questa vicenda? Io non è che non lo faccio perché non voglio parlare degli ebrei, di Hitler, dei figli di Berlusconi, è che non vorrei parlare del libro di Bruno Vespa, se fosse possibile. Infatti, è perché è tutto lì, le anticipazioni sono lì. Ormai l'agenda politica è dettata con distillate gocce di quando esce già vecchio questo libro. Quando esce, praticamente uno mette insieme i lanci, agenzie, i titoli degli ultimi giornali e l'ha già letto tutto. Ritaglia tutti i giornali, eccetera. Comunque è un'agenzia pazzesca, guarda, quanti 10 anni. Io mi ricordo vignette sull'anticipazione del libro suo, di 12 anni fa. Ogni anno di questi tempi c'è il vino novello. No, è di questi tempi, ogni anno c'è le castagne, il vino novello e le anticipazioni di Vespa. È l'influenza. Vabbè, che dobbiamo... Agnese che era gelosa di Leopoldo e si fa tutti i percorsi preferenziali di Firenze per spiegare il marito. Vincino è partito. Adesso aspetta, non mettere Agnese, che la gente dice Agnese, ma chi è Agnese? Con calma, andiamo con calma. No, dobbiamo dire qualcosa. Luisella Costamagna, vuoi dire qualcosa sulla vicenda Berlusconi? Poi ma chiudiamo. Cosa vuoi che si dica? È allucinante. No, mi stupivano due cose. La prima, appunto, riferita a Vespa, che a differenza di come si giustifica sempre poi Berlusconi dicendo sono stato fraintendi, in questo caso è una frase estrapolata dal contesto, sì, no? Per difendere Vespa, che voglio dire, può essere qualunque contesto, ma se la frase l'ha detta è comunque gravissimo. Non solo, Bruno Vespa, oggi intervistato dal Fatto, dice me l'ha mandata in aggiunta scritta, quindi l'ha pure scritta, qui scripta manent, proprio. Mannaggia. La fa dire Mussolini, la seconda suggestione, si è visto che Mussolini l'avete fatto sentire voi, non la rassegna delle frasi allucinanti ha detto, e citare Hitler, perché Mussolini è altra cosa, quindi non ce la fa. Ha fatto anche delle cose buone. Buone, ovviamente. Tu, Vincino, vuoi dire qualcosa su questa vicenda? Poi sono troppo vecchio, guarda, io ora poi un ricordo, la prima fase così è di Piperno 40 anni fa, Potere Operaio, dice ci credono ma noi non faremo gli ebrei, praticamente non le prenderemo solo ma risponderemo a tutto, li massacreremo a tutti, per cui è una cosa, la cosa politica vecchia italiana di 40 anni, no, ne ha dette di tutti i generi, di tutti i colori. No, comunque la vera notizia sui nazisti oggi la dà Repubblica, ve lo dico. Ezio Mauro, direttore in persona, fa un pezzo di 3 pagine con tutte le foto della tomba di Priebke. La tomba in un luogo segreto, non viene svelato ovviamente, ma ci sono le foto, quindi qualcuno potrà riconoscere, all'interno di un carcere italiano, dove 2 persone, una solo delle quali sapeva che cosa stavano, insomma, seppellendo come tomba e come bara, e c'è solo un numero in all'interno di un giardino molto, ci sono le foto su Repubblica, un giardino di un carcere italiano, neppure il sindaco del comune dove c'è questo carcere sa che lì è sepolto Harry Pinker. Vabbè, insomma. In Bibbia dove? Un posto non lo so. Però carceri in Italia non sono tantissimi, ci sono le foto, secondo me qualcuno carceri grandi riconoscerà nel giro di un giorno, si riconosce. Con i cimiteri interni sono pochi, non vabbè. È che sono tanti. Allora, la notizia politica del giorno invece sui giornali, cara Luisella, al PD sta succedendo un putiferio con gli iscritti, a parte Agnese, allora svegliamo perché ha parlato di Agnese, la moglie di Matteo Renzi è stata pizzicata a usare il pass del marito con la macchina per andare in una corsia preferenziale. È lei che se le girate tutte le corsie preferenziali fino a quando ha trovato un po' di fotografi. No. Sì. Vuole rovinare la corsa al marito. Cioè, tutte queste ragazze bellissime, onorevoli del PD, bellissime che la cerchiano sempre, vanno sempre in televisione. Ah, è gelosa. Ma non ne può più lei. È gelosa. Anche lui dà, come dire, non è che gli dà un po'. Vabbè, chissà, no, non lo so. Comunque, al di là di questa quisquiglia, non so, Luisella, che infatti succede all'interno del Partito Democratico? No, ma guarda, ma mi sembra che stiano tutti messi così, cioè questa cosa del tesseramento, diciamo che non è delle cose più appassionanti, mi sembra il disastro più totale che attraversa tutti i partiti di maggioranza. Ho proprio l'impressione è presente il governo di larghe intese come l'esplosione di una bomba controllata, sai quando si fanno brillare le bombe in una cosa stagna, cioè fuori non si può criticare, non si può mettere in discussione vicenda cancellieri vergognosa, però all'interno esplode qualunque cosa. Però dici no, questa cosa del tesseramento non è interessante. Aspetta, non è interessante. Io pensavo che in tutti i bar d'Italia parlassero del tesseramento del PD stamattina. Guarda un po', tutti a parlare, cappuccio, caffè e tesseramento. È un file tentativo di buttarla in caciara perché non sa come fare. No, comunque attenzione, la frase, Renzi viene intervistato oggi da Repubblica, la frase finale è proprio questa: non mi è piaciuto per niente il comportamento di Anna Maria Cancellieri. Allora, a te Vincino, a te, questo prelude chissà qualcosa. Io, guarda, i ministri di giustizia li voglio così, buono, di buon animo, che come dire, ci aiutano e ci cosa. Non li voglio, la voglio una bella vecchietta carina là, che se uno gli telefona lei c'è, risponde, eccoci qua. Non voglio un giustiziere al ministero di giustizia. A Vincino non risponde, dice. Però Luisella dice che pure il pescivendolo, faccio due vignette cattive e mi risponde subito. Non ti preoccupi, io ho i miei sistemi, io riesco con la ferisce con la penna. Gli mando prima in privato e 6 ore dopo sul giornale, sul foglio dove mi pubblico tutto quello che voglio, e loro si terrorizzo perché li metto continua sotto, e quando miseria, che sarà dopo? Ma senti, ma guarda Luisella, sai che se anche il pescivendolo ha il cellulare della Cancellieri, così ha detto. Tu ce l'hai? Io non ce l'ho personalmente il cellulare. No, però te lo puoi procurare. Vabbè, mi dai, quanto mi dai che tra un'ora te lo do, dai. Vabbè. Comunque è una vicenda vergognosa, voglio dire, appunto, la sensazione che ormai le cose si sanno, gli scandali si sanno, ma non cambia niente, cioè alla fine lei sta al suo posto, non c'è nessuna giustificazione. Ma vergognoso cosa? Ma vergognoso cosa l'amicizia con Ligresti? Cioè, si può processare? Ma... che cosa è vergognosa di questa vicenda, secondo te? Io faccio riferimento alla telefonata che fa il giorno in cui viene arrestato Ligresti e gli altri, voglio dire, e le figlie. Stiamo parlando di una persona che, a parte avere una condanna definitiva ai tempi di Tangentopoli per corruzione, viene arrestato con accuse pesanti, falso in bilancio, manipolazione di mercato. Il fatto che un ministro della giustizia non prenda nessun tipo di distanza con la compagna, dica conta pure su di me, non è giusto quello che è successo, è assolutamente è quello che... Dopodiché nel nostro paese io credo che gli italiani siano arrabbiati, ma ormai sono anche rassegnati, perché il fatto che di fronte a tutto questo non cambia assolutamente nulla, ci sia poi insomma una sorta di applauso, di ricompattamento, perché se salta lei saltava anche il governo Letta. È questo. Capito Vincino, non si telefona. Basta che non sento una parola, perché in un paese normale, io se sento la parola, perché l'Italia non è un paese normale, se fossi un paese, in qualsiasi paese normale io mi vengono i brividi, picchio tutti, perché mi dice un paese normale li picchio, basta. Perché da 30 anni, 20 anni che sento, se fossi, cioè pure Veltroni 20, 15 anni fa, in un paese normale, fossi un paese normale, madonna, siamo in Italia, basta, rendetevene conto e via. Questa è l'Italia, se vi piace, basta. In Italia dove si arrestano le famiglie? Dove si arrestano le famiglie? In Italia e nel Buranda Burandi, no? Cioè arrestare tutta cos'è la il Buranda Burandi? Ma cos'è il Buranda Burandi? Dai, fai il bravo. 24 mattino. Sono Anna Maria Cancellieri, perché apro i cancelli a chi voglio io. Sono pronta a dimettermi se il paese me lo chiede. Passiamo subito al televoto. Se mi guardo allo specchio e non mi piaccio, io non cambio lo specchio. Un po' di autocritica non farebbe male, perché tutti, chi più chi meno, siamo responsabili. Alessandro, ma lo sai quanto costa un salvataggio in mare? Navi militari, capitaneria di porto, elicotteri, ma perché non ci mettono un traghetto? Alessandro, ma mi spieghi perché la Presidente della Camera, Laura Boldrini, quando devi invitare un deputato a parlare, a prendere la parola, sta sempre con l'aria scanzonata, mi sembra la sola Ciccioli, è invitata a parlare per le facoltà, andiamo avanti, ma che è sta, ma va bene pagata profumatamente questa tizia, per esempio che c'è qualcosa che gli brucia sotto la sedia. Certo che Fabrizio Corona in carcere starà pensando quanto sarebbe stato meglio conoscere la Cancellieri invece di Belen. La Cancellieri ha detto che la Ligresti è una sua vecchia amica, ma è una vergogna che un ministro abbia delle certe amicizie. Questi hanno rubato 600 milioni d'euro alla società La Fondiaria e vi difende anche, ma ti pare anche possibile una cosa del genere? Ma questi politici che rubano per mangiare, ma quanto mangiano? Ma non vi viene il colesterolo? Non c'è sta niente da dire. La notizia è proprio bella, finalmente sta a finire l'infinità tarantella. Ma le strade si sono strette per evitare la decadenza, sta a vedere dal 27 di quel tipo famosenza. Niente, lo stornellator cortese, io lo adoro, il nostro stornellator cortese si fa vivo quotidianamente. Ma ha degli ascoltatori meravigliosi. ma sono così. Mamma mia. Sono così. No, sono creativi, sono fanti. Vabbè. Mamma mia, sono... belli forcaioli e cose. Ci sono forcaioli, ci sono, vabbè, insomma, che dobbiamo dire? E devo dire, ecco, questa del paese effettivamente non l'ho capita, ma come farà Anna Maria Cancellieri, secondo te, Luisella, a capire il paese? Se il paese me lo chiede, giustamente, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sono pronto a scendere in campo solo se il paese me lo chiede. Sono pronto ad andarmene solo se il paese me lo chiede, poi scendono in campo e non se ne vanno anche se il paese glielo chiede. Cioè, proprio... Ma poi il paese, cosa vuol dire? Facciamo un referendum tra 60 milioni di... Vabbè, ma che dobbiamo fare? Allora, in tutto questo, i politici che mangiano, io non ne posso più, Vincino, l'ultima alla regione Sardegna, banchetto di nozze a spese nostre, Rolex e Montblanc. banca a spese nostre per 250.000, non ne posso più. Ma che si può fare? C'è una cosa curiosa di questa storia qua delle regioni, però. Sì. Cioè, da quando è iniziata l'anno scorso, questi sono, insomma, quindi da quando ci sono le regioni che fanno così, no? L'anno scorso qualcuno si è inventato che questi soldi che loro si prendevano come rimborsi era là un reato, poteva essere un reato, e via. Siccome sono senza è un reato se li usano, è un reato se li usano. In Italia sono senza fantasia e via, sono messi tutti a scala, tutti in fila dietro tutte le regioni. Ma no, ma non è che è un reato prendere i soldi, ma non è un reato prendere i soldi, è un reato comprarsi un Rolex con i soldi della regione. E dai, su. Come dire, o glieli danno senza coso e loro, cioè, come dire, non era. Infatti no, io lo dico, io lo dico da sempre, l'occasione fa l'uomo ladro, non bisogna darglieli questi soldi, no? Luisella, se ti dessero un milione di euro a disposizione. Una tolleranza che veramente. Dico, Vincino è un po' troppo tollerante. È un attore di satira, io conosco il mondo, che ci vogliamo fare? Si chiama garantismo. Bravo, stupendo, garantismo. Meraviglioso. Io sono contro i magistrati da sempre, sono anarchico, hai capito? Contro i magistrati, contro lo Stato, contro tutto. È anarchico, Luisella, che ci devi fare? È anarchico. Va benissimo in Italia, però, dopodiché i soldi pubblici, perché dovrebbero essere usati per fare, insomma, cose politiche, non possono essere usate per comprarsi le mutande, come avviene in questo federalismo dello spreco dei rimborsi elettorali, perché l'unico risultato delle regioni è moltiplicare i modi in cui questi spendono i soldi per affari propri, in realtà. Sì, abbastanza, abbastanza. E Vincino, che ti devo dire? Va bene il garantismo e tutto, Vincino, però... No, ma qual è la differenza tra una scena di partito e una scena con quattro amici? Me lo dici quella differenza? Nessuna. Sì, ma invece comprarsi il Rolex, come sarebbe questa l'accusa? Per regalarlo al segretario del partito, madonna mia, a Togliatti regalavano di tutto, no? Vabbè, ma dai, cioè, ma allora... Non gli diamo più una lira a questi qua e basta, è chiuso. Appunto, è quello che dico io, è quello che dico io, non diamogli più i soldi. Non possiamo fare solo gli ultimi sei mesi, cioè andiamo ma d'accordo. Gli ultimi 10 anni. Ma d'accordo, ma è chiaro che adesso c'è la moda, anche la moda, devo dire, giornalistica. Di andare. No, i magistrati vanno a moda. I magistrati. È una cosa facile quella là, cioè si trovano tutte le cose scritte, mandano il finanziere e via. No? È troppo facile. Luisella, è così. È così. Vere, è noioso andare sulle strade e cercare gli omicidi. Là ci hanno facile e via. Mandano la finanza. Luisella, è così. È un amante della provocazione, però bisogna fare attenzione anche a quello che si dice, Vincino, perché. Voglio dire, non è un interesse smodato dei magistrati. Vabbè, ma noi siamo cattivi, Luisella, stronchiamolo così. Vincino è per gli sperperi e il peculato delle regioni italiane. Scriveteli tutti su Vincino Web, su Twitter. Oh, così Vincino ti abbiamo sistemato. Massacratelo! Massacratelo tutti! Adesso lo twitto subito. Vincino è per gli sprechi delle regioni. Oh, intanto vi ringrazio, mi devo fermare, vi saluto. Grazie, alla prossima, Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali con voi, cari ascoltatori. E vi ricordo che oggi parleremo di tasse, le tasse che stanno colpendo un settore in particolare, quello delle sigarette elettroniche, un tema di cui abbiamo già parlato, ma parleremo anche delle prove di rivolta fiscale che ci sono state l'altro ieri a Torino, dove un gruppo di commercianti ha occupato i binari dell'alta velocità. Insomma, che sta succedendo? Davvero gli italiani non ne possono più? Ne parliamo alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. Aspettavo lo stacchetto, se no se non c'è lo stacchetto non gliela faccio. Va bene, giovedì 7 novembre e siamo ai titoli che sono molto variegati, molto diversificati oggi. Il Sole 24 Ore, asta record per il BTP Italia, questo è il titolo di apertura, oppure la politica per il Corriere della Sera, la scelta è su il PDL è a un passo dalla rottura, mentre Repubblica, caos PD, stop al tesseramento. Dunque problematiche diverse, ma i due partiti maggiori delle larghe intese che sono in difficoltà. Per il Fatto Quotidiano anche il PD, blocchiamo le iscrizioni ma i falsi tesserati sono già dentro. L'Unità, Epifani, stop al tesseramento. Il Giornale invece si concentra sulla moglie di Renzi. La moglie di Renzi fa la furbetta. Riprende un'inchiesta di Panorama, una foto di Panorama che ha pizzicato la moglie di Renzi con la macchina del marito con un pass per entrare in una preferenziale a Firenze. La Stampa, tasse sul lavoro, mossa di Letta, niente taglio, i soldi ai poveri. Il Messaggero, manovra le condizioni dell'Unione Europea. Mentre il Secolo XIX salva la casa stangata sulle banche, non si pagherà l'IMU e pagheranno, i soldi verranno reperiti sulle banche, vedremo come. Per il Manifesto invece la mela rossa è dedicata all'elezione a sindaco dell'italo-americano Bill de Blasio. Mentre Libero, Libero è un'apertura. Ecco il verbale del magna magna, tre pagine dedicate all'ultima seduta della Camera, tutta dedicata al ristorante della Camera stessa. Ma io voglio partire da uno scoop che ha Repubblica in primo piano e in prima pagina, vale a dire Repubblica ha scoperto la tomba segreta di Erik Priebke. Sapete che ci sono state tante polemiche sulla sepoltura dell'ex gerarca nazista condannato per la strage delle Fosse Ardeatine. E allora eccola qui. E tra l'altro il direttore Ezio Mauro che fa quest'articolo, tre pagine, da pagina 33 a pagina 35, dove è sepolto Erik Priebke, la località è segreta, in un comune segreto, in un cimitero di un carcere italiano. Ecco il cimitero dove lo Stato italiano ha sepolto in gran segreto il boia delle Ardeatine. Si trova in un carcere, sulla croce c'è solo un numero, così la famiglia potrà ricordarlo e tutti gli altri dimenticarlo. Solo che Repubblica mette in primo piano la foto del campo con l'erbaccia incolta, alcune croci e all'interno del carcere dove è stato sepolto. Il mio timore, o comunque la mia idea, è che nel giro di 24 ore qualcuno identificherà da questa foto il comune, quindi si svelerà anche la località. Ezio Mauro scrive: non c'è ancora l'erba sulla terra smossa dell'ultima tomba, terra fresca scavata col piccone, rigettata nella fossa col badile in fretta. Erano almeno 20 anni, qualcuno dice 30, che qui non c'era una nuova sepoltura. Cercare nomi e date sulla pietra delle vecchie tombe è difficile. Un cimitero in disuso, anche se resta consacrato, il cappellano viene a benedire nel giorno dei morti, ma tutto degrada in fretta. E qui, con un unico cipresso, che è stato sepolto il luogo misterioso della sepoltura di Erik Priebke. E poi Ezio Mauro racconta tutta la procedura, molto estremamente segreta. La prova è nell'ultimo atto, quando il direttore del carcere, convocato a Roma per sapere che avrebbe dovuto ricevere l'ospite più indesiderato d'Italia, è ripartito col vincolo del segreto. Cinque detenuti hanno sistemato la strada bianca che porta al cimitero, hanno raddrizzato le croci sulle tombe dimenticate, hanno tagliato le erbacce, non sanno ancora oggi perché lo hanno fatto. E tutto nasce quando due uomini a bordo dell'auto, arrivata alle 3:45 del mattino all'ingresso dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove era tenuta la bara di Priebke, uno solo dei due sapeva dove stavano andando e perché, l'altro pensava a guidare. Era nella notte tra un sabato e una domenica di fine ottobre. Questi due uomini sono usciti con la bara dentro coperta da un telo per non vedere che la stavano spostando. D'altronde nessuno voleva la salma del boia, e sono arrivati in questo comune sconosciuto, dove neppure il sindaco del comune che ospita il carcere è stato informato, ma solo il direttore del carcere, e nel giro di 2 ore la veloce sepoltura. A Roma l'unità di crisi riceve dunque il messaggio che aspettava: tutto a posto, operazione terminata. Pensate, scrive Repubblica, che per sicurezza il governo è stato informato qualche giorno dopo. Prima di ripartire, gli uomini venuti da Roma piantano sulla tomba la croce di legno scuro che era stata intagliata nella capitale. Al centro non c'è il nome, neppure la data, ma solo un numero conservato in una busta gialla coi sigilli nella cassaforte del funzionario che ha pilotato l'operazione. Verrà consegnata al figlio di Priebke, che a dicembre arriverà da New York per visitare la tomba del padre, adesso che c'è la tomba. Insomma, con la foto, l'ultimo segreto del boia, Repubblica, abbiamo scoperto dove è la tomba di Erik Priebke e dove è stata sepolta. E, davvero un salto per tornare alle tematiche di cui ci siamo occupati anche la segna stampa nei giorni scorsi, ma davvero non se ne può più. Ogni giorno si porta questa pena di scoprire, per quel che riguarda le spese dei consiglieri regionali, un nuovo scandalo, presunto scandalo, dopo l'Emilia Romagna che è stata sulle prime pagine dei giornali per vari giorni. Ora tocca la Sardegna. Ieri sono stati arrestati 2 consiglieri regionali sospettati di fatture false e sospettati di peculato. Uno dei 2 avrebbe pagato il ricevimento di nozze con 300 invitati per la spesa di 23.000 euro con soldi della regione. Per carità, usare il condizionale, si tratta di Carlo San Just, 43 anni, avrebbe utilizzato fondi pubblici per le nozze, Rolex e feste di nozze coi soldi della regione, soldi nostri, secondo l'accusa. Pagina 4 di Repubblica, ma anche il Messaggero dedica una pagina, pagina 11, Sardegna, pure le nozze a spese della regione. Indagine su sprechi pazzi, arrestati 2 consiglieri, un altro consigliere invece arrestato. Si tratta di Mario Diana, 66 anni, ritenuto responsabile di aver usato i rimborsi per comprare antichi e preziosi libri, Rolex d'oro, penne Mont Blanc e venti vari per oltre 250.000 euro. Ma come si fa? Anche il secolo XIX, Sardegna, 2 politici in cella, feste di nozze coi fondi pubblici. Ah, mentre invece Libero, a proposito di cast eccetera, pubblica 3 pagine spassose che sono l'integrale del verbale della seduta della Camera avvenuta 2 giorni fa. Ma leggerla veramente mette da un lato di buon umore, dall'altro lato... Vabbè, ecco il verbale del magna magna, 3 pagine. Mentre la Camera discute del bilancio interno, spunta un ordine del giorno sul ristorante di Montecitorio. Ed eccolo lì, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, lancia l'ordine del giorno sul ristorante perché è gestito da una società straniera. E da lì parte una discussione che coinvolge tutti. Maurizio Bianconi del PDL, già è un avvelenatoio il ristorante della Camera, speriamo che almeno sulla qualità non si risparmi, quando fanno il bando che ci si possa almeno mangiare, si lamenta. E poi a un certo punto interviene Gianluca Buonanno della Lega: visto che noi siamo i primi a dire che siamo tutti uguali, che siamo gente del popolo, che dobbiamo far vedere che siamo persone normali, sarebbe il caso di fare in modo che la questione del ristorante venga sfruttata meglio. A un certo punto Gianluigi Gigli di Scelta Civica: sentite l'intervento verbalizzato alla Camera. Signor Presidente, volevo sottolineare che esiste in fisiologia un riflesso chiamato pavloviano, per il quale al ripetersi di alcuni tipi di stimoli i succhi gastrici si mettono in moto e attraverso il ripetersi di questi stimoli condizionati generano una condizione di bisogno impellente. Chiedo pertanto alla Presidenza se non intenda valutare un'interruzione per poter assolvere appunto a questi bisogni fisiologici, non solo di carattere alimentare ma anche di altro genere. Insomma, doveva andare a pisciare questo deputato e ha fatto questo intervento. E la Boldrini: grazie, ci penseremo. E poi avanti così, 3 pagine, interviene Giachetti che sta facendo lo sciopero per il Porcellum, è sciopero della fame. Signor Presidente, io potrei avere un conflitto di interesse, al contrario, nel senso che per me potreste chiudere sia la mensa che il ristorante, in questo periodo non mi creerebbe alcun problema, e fa il suo intervento. E poi un altro, e un altro ancora, insomma tre pagine in cui Libero scrive sulla panza, le intese sono larghissime, lo stenografico pubblicato è il miglior ritratto di questa classe politica, mentre famiglie, pensionati e imprese si affannano a far quadrare i conti, i parlamentari passano ore a discettare di catering, mensa, diete e ristoranti della Camera. Evviva, e andiamo in pubblicità. 24 mattino. Allora, alle 7:34 minuti, come dire, i partiti politici del governo delle larghe intese, PD e PDL, sono in difficoltà per motivi ben diversi. I giornali si concentrano sulla questione del PD con il caos delle iscrizioni, iscrizioni pazze, i giornali hanno raccontato di persone colpite sulla via di Damasco della politica, sono andate a iscriversi improvvisamente e prendere la testa del Partito Democratico in vista dell'8 dicembre primario. Allora, Epifani e il caos iscritti, bloccare tutto da lunedì. Questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 8, il via libera di Renzi. Ovviamente si cerca il consenso di tutti i candidati alle primarie per bloccare una situazione che, come racconta Il Fatto nell'articolo a pagina 6, circoli sbarrati, il PD vuole fermare le iscrizioni tardi perché molti sono iscritti e sono iscrizioni, come dire, farlocche, come racconta per esempio nell'articolo Tiziana Colluto a pagina 6 del Fatto, in fila per votare ma non sanno neanche chi è il segretario. Succede, una testimonianza da Alessano in provincia di Lecce, in un pomeriggio arrivano in 80, c'erano ragazzini con 20 o 50 euro già in mano, raccontano oggi il responsabile del circolo del PD. L'addetto all'ufficio adesione a quel punto ha chiesto a qualcuno se conoscessero almeno il nome del segretario nazionale del PD, e quando gli hanno risposto di no e che non gli interessava, siamo rimasti a bocca aperta. Il congresso è stato stoppato per un'ora per poi riprendere e sfornare numeri. Oppure qualche chilometro più in là, Gallipoli, la porta del circolo di via Andronico è chiusa, non ci sono soldi per pagare l'affitto, abbiamo disdetto il contratto, dice la segretaria fino a dieci giorni fa, Pina Cassino, poi commissariata mentre era in convalescenza. Insomma, viene sospeso per 4 giorni il congresso. Sembra un po' un putiferio. C'è da dire che Matteo Renzi viene intervistato da Goffredo De Marchis da Repubblica, pagina 3. Il titolo dell'intervista: che pasticcio con gli iscritti, ero contro certe regole folli, ma ora voglio parlare dell'Italia. Racconta Renzi, che ci posso fare? Hanno detto sospendiamo il tesseramento. Io ho risposto va bene, la prossima volta cosa mi chiederanno? Di ritirarmi? Non volevo questo calendario, ma sembrava che avessi paura del voto degli iscritti e sono stato buono. Hanno voluto mettere bandierine, per esempio al comitato Cuperlo, sui segretari provinciali, una gara assurda, ma poi Renzi dice siamo un paese che ha più del 40% di giovani disoccupati, occupiamoci di loro. Tra l'altro, in questa intervista c'è solo lo spazio per una domanda sul caso Cancellieri, e risponde così Matteo Renzi, aprendo forse un fronte per la prossima settimana. La vicenda parlamentare sembra chiusa, ma l'atteggiamento del ministro Cancellieri non mi ha convinto per niente. Così la chiusa dell'intervista di Matteo Renzi su Repubblica, che può forse preludere a qualche nuova tensione politica sul caso a partire da settimana prossima, quando ci sarà la mozione di sfiducia per il ministro. Tra l'altro Matteo Renzi invece deve combattere in qualche modo con una serie di articoli che riguardano la moglie. È Panorama che ha tirato fuori questa notizia, le foto della moglie di Matteo Renzi, Agnese, pizzicata con un pass a scrocco, era a bordo della macchina del marito, la macchina privata, con un pass per entrare in una corsia preferenziale di Firenze. La moglie di Renzi con il pass a scrocco, questo riporta anche il giornale a pagina 7, fotografata da Panorama sulla corsia preferenziale col permesso del sindaco, ecco l'autogol del rottamatore. Ed eccolo qui, allora, Agnese, moglie in preferenziale, ho usato il permesso di Matteo. Lei tra l'altro non smentisce, dice ho sbagliato, ero nella fretta, ho preso la macchina di mio marito, mi scuso, non succede succederà più, ero in ritardo per andare a scuola, ho preso una corsia preferenziale, ho sbagliato e non risuccederà. Così si difende Agnese Landini, la moglie di Matteo Renzi. Mi scuso se ho offeso la sensibilità di qualcuno, mi spiace richiamare su di me, sul mio lavoro, un'attenzione che non voglio. Stavo guidando la macchina privata di mio marito, d'ora in poi starò attentissima a togliere il tagliando del permesso del Comune di Firenze quando userò l'auto. Quella mattina non l'ho fatto e mi dispiace molto. Ma aggiunge, sentirmi paragonata alla casta per avere percorso qualche centinaio di metri in corsia preferenziale mi sembra profondamente ingiusto, ma mi aiuterà per il futuro a stare più attenta. Vabbè, insomma, anche sul Corriere, mezza pagina, la moglie del sindaco usa il pass, si difende, mi scuso ma non sono la casta. E vabbè, succede anche questo, colpi bassi, e quando si fanno queste corse bisogna andare politiche, bisogna andare anche a vedere, ovviamente scandagliare le vite delle persone. Oh, invece il PDL è, come titola il Corriere della Sera in prima pagina, un passo dalla rottura. È davvero così? Così viene letta l'anticipazione del Consiglio Nazionale del PDL, che era prima convocato l'8 dicembre e invece è stato anticipato a sabato 16 novembre da Berlusconi, una mossa a sorpresa che prelude, secondo tutti i quotidiani, a un vero e proprio conflitto e un vero e proprio scontro tra i cosiddetti governisti e chi sono? Allora, da una parte ci sono i governisti, questo lo so, i lealisti. Gli altri chi sono? I falchi, non lo so, gli scissionisti, non ho ben capito. Comunque ci sono le due ali, quelle più vicine a Berlusconi, i cosiddetti falchi, quindi Fitto, e quelli invece i governisti, Lupi, Quagliariello, eccetera. Oggi Sandro Bondi fa un'intervista sul Foglio. È molto amara la sua intervista. La nostra storia finisce nel fango tra vili e traditori. Questa storia è davvero finita. Dietro Berlusconi non c'era niente. E vabbè, posso glissare sulla questione i figli, gli ebrei, Hitler? Tutti i giornali parlano, chi di gaffe, chi di... No, vabbè, glissare, vabbè, questa è la rassegna stampa, quindi ci sono tante pagine su questo. Ne parliamo tra poco. Prima voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, del Sole 24 Ore. Non posso glissare perché ci sono pagine e pagine su questo tema. Allora, il Sole 24 Ore che cosa ci propone oggi? Guarda, il Sole 24 Ore, pur dando spazio anche a questa notizia che, per carità, come dichiarazione ha occupato buona parte del dibattito politico, oggi sai che è il giorno della BCE, vediamo se finalmente si abbassa il costo del denaro oppure no, che altre decisioni saranno prese. È tutto molto importante, un tabellone riepilogativo nella nostra seconda pagina spiega perché è importante, cosa potrebbero fare. Però io stavo leggendo anche un po' di cose altre sul nostro giornale, ad esempio questa vicenda della portaerei Cavour che porterà in giro il Made in Italy per i mari del mondo, insomma, facendo vedere le nostre eccellenze sui mercati mediterranei, sulla penisola araba. Ne parla Alberto Rioli già dalla prima pagina, quando parla di una valigia galleggiante carica di campionario. Ma si fa di tutto per cercare di promuovere il paese, anche questo che è un modo insolito, effettivamente è un modo un po' insolito. È insolito, lo raccontiamo, infatti lo racconta Laura Cavesti e poi anche Alberto Rioli. E poi ero interessato, non so, vuoi comprare delle azioni dei film di Sergio Leone? Va bene, mi presti dei soldi? Ma adesso con quello che risparmierai sui conti correnti, sai che c'è il collegato, sì. Ma comunque leggilo sul Sole, insomma, vabbè, chiaro, vai. Finisce la trasmissione, te lo leggi, e con quello che risparmierai potresti metterti in fila, aspettare che quotino, e lo spiega Carlo Festa, la società di produzione, la casa di produzione dei film di Sergio Leone, che detiene i diritti del grande regista, che si quoterà all'AIM, non al listino principale di Milano, ma su un listino secondario, e quindi potresti acquistare anche tu un pezzettino, che so, del buono, il brutto e il cattivo. Vabbè, leggerò l'articolo, poi cercherò di reperire dei soldi e poi il più è fatto. Ecco. No, i soldi adesso vedrai che con l'IMU si troverà un modo. Ah, sì. Sicuramente. Sì, troverà un modo, forse ripagano i terreni agricoli. Vediamo, insomma, come va a finire. Poi arriva il collegato sviluppo, ti fa risparmiare su con le, ma che bello questo ottimismo, sei l'unico in Italia che pensa che insomma recupereremo dei soldi, e questo è buono insomma, è ma importante. Sai, io non avendo seguito il calcio, non seguendo il calcio infrasettimanale, in questo periodo sono più positivo, ma neanch'io infatti lo seguo comunque, no Mauro, io dico sempre chiaro, ma tra l'altro non mi, io ti giuro, perché mi prendo sempre in giro su questo, ma oggi non mi è arrivata la Gazzetta dello Sport, quindi non posso, non proprio posso oggi leggere. No, ma ti giuro, altre volte scherzavo, questa volta veramente se la sono dimenticata. Comunque ricordati Mauro nel salutarti, sempre meglio perdere a Barcellona che fare le amichevole infrasettimanali con la Pergolettese, Noi questo, guarda, siamo molto questo, sereni su questo, per di più guarda, voglio essere sportivo fino in fondo, sì. Il rigore assegnato a quei signori lì mi sembrava, come dire, generoso, sì. Spero che anche la BCE abbia una manica così larga da ridire oggi nelle decisioni. Ah, sì. Pensavo abbia da annullare il gol, il rigore al Barcellona, va bene, no, dai. Non temo che non abbia giurisdizione, non si può, questo. Non si può. Grazie Mauro, ci ritroviamo domattina, intanto io allora, ecco la vicenda appunto, i figli, gli ebrei e Hitler, la gaffe del cavaliere, ecco c'è chi la dipinge come gaffe, anche Libero, sempre vicino a Berlusconi, dice no, l'olocausto caro cavaliere, no, ci sono interviste a sopravvissuti alla Shoah come Liliana Segre, c'è una lettera sul Corriere della figlia di Liliana Segre, Federica Belli Paci, è una bella lettera che vi segnalo in prima pagina, indirizzata a Berlusconi e ai figli di Berlusconi, c'è un'intervista a Bruno Vespa, perché certamente tutto questo mica era una dichiarazione pubblica di Berlusconi, ma va, era ovviamente la goccia quotidiana che viene data alle agenzie delle anticipazioni del libro di Bruno Vespa. Negli ultimi giorni tutte le agende politiche che hanno dettato i titoli dei giornali sono anticipazioni del libro di Bruno Vespa, e Bruno Vespa, intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: ha aggiunto la frase mandandomela scritta, voleva rendere l'idea della sofferenza e dell'assedio, l'ha inserita in un secondo momento inviandomi un'integrazione scritta a quanto mi aveva detto durante un colloquio. Sto dicendo che è stata estrapolata da un contesto più ampio, come ha precisato anche Berlusconi. Ma insomma, sta declassando la dichiarazione a battuta, simpaticheria berlusconiana? No, no, ma sappiamo tutti quali sono le posizioni molto chiare in merito all'olocausto di Silvio Berlusconi, e sappiamo quali sono le, come dire, le condanne, sappiamo anche, dice Bruno Vespa, che è il più grande amico di Israele, lo conosciamo tutti, vabbè, vabbè, insomma. Abbiamo dedicato un minuto anche a questa vicenda, dovevamo, in rassegna stampa d'altronde sui giornali è pieno di questi articoli, ora dimentichiamocelo, andiamo avanti. E insomma, prima si diceva con Mauro Meazza si troveranno i soldi, il tema che è ribadito e sarà un tormentone da qui fino a dicembre sui giornali è la questione di come reperire 2,4 miliardi per non pagare la seconda rata dell'IMU. Ah, tra l'altro devo fare una parentesi, giustamente me l'avete segnalato via SMS e non lo sapevo, la Gazzetta in sciopero sia oggi che domani, due giorni, ecco perché non mi è arrivata la Gazzetta con il titolo del Milan. Vabbè, mai sciopero fu più azzeccato come tempistica. Comunque la seconda rata dell'IMU non si pagherà, questo è il titolo che troverete sui giornali oggi, ma domani si sa, in questo tormentone potrebbero essere titoli diversi. Come, racconta il Messaggero, come si reperiranno i 2,4 miliardi? È sempre più probabile la stretta sulle banche. Pagina 7 del Messaggero, Andrea Bassi: i 2,4 miliardi si troveranno così. Intanto si dovrebbe escludere dall'esenzione della seconda rata dell'IMU, cioè invece pagheranno la seconda rata dell'IMU, i fabbricati rurali e i terreni agricoli. Questo dunque farebbe ridurre la necessità di trovare non 2,4 ma 2 miliardi di euro. Come si trovano questi 2 miliardi di euro? Prende sempre più piede l'ipotesi di far anticipare alle banche nel 2013 il versamento per la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia. Questa è l'ipotesi più accreditata, quindi pagheranno le banche. A proposito di tasse, noi parleremo alle 8.15 anche di questa rivolta fiscale che c'è stata a Torino con commercianti che hanno occupato i binari dell'alta velocità, e proprio oggi Piero Fassino, il sindaco di Torino, intervistato dalla Stampa, pagina 3, dice: 36 leggi in due anni, da qui parte il disagio fiscale. Intervistato da Andrea Rossi, dice Fassino: sa quante leggi o decreti sono state emanate dal novembre 2011 a oggi modificando la cornice dentro cui un comune si muove? 36, uno ogni 20 giorni, ciascuno ha cambiato le carte in tavola per me che faccio il sindaco e di conseguenza per i miei cittadini. Sì, chiede la stampa, ma com'è possibile che un commerciante sappia solo ora che la tassa rifiuti quest'anno costerà il 20% in più? Risponde Fassino: è una delle tante storture del sistema fiscale di cui cittadini e imprese sono le prime vittime. Noi sindaci veniamo subito dopo. Abbiamo deciso le tariffe della Tares a ottobre perché da Roma non avevamo certezze. A quel punto era troppo tardi anche per risolvere gli aspetti eventualmente critici. Vabbè, il dato di fatto tradotto è che alla fine la catena finale, l'anello debole della catena, e quello che sta in fondo è sempre, sempre sarà il cittadino che paga. Quindi, dice Fassino, noi sindaci non avevamo certezze da Roma, quindi abbiamo stabilito solo a ottobre i prezzi delle tariffe come della Tares, e solo a ottobre dunque chi ha scoperto che bisogna pagare il 20% in più? I cittadini. È così. A proposito di stampa, c'è una notizia che viene data a pagina 10 ed è questa: la procura di Ivrea ha aperto, dopo il famoso caso dell'Eternit di Casale Monferrato, un'inchiesta, 20 morti per sospetto amianto all'Olivetti, e tra gli indagati ci sono i proprietari di allora, l'ex presidente Carlo De Benedetti e l'ex amministratore delegato Corrado Passera. Questo è il titolo di un'inchiesta che probabilmente anche susciterà scalpore. Siamo alla conclusione, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, la carta costa. Oggi stravince un articolo incredibile trovato sul giornale a pagina 19, firma Lucia Serlenga. Guardate il titolo: non solo ricette e pastiglie, le farmacie diventano salotti. Ah, i salotti, sulle farmacie ci sono ottuagenari che vanno in farmacia volentieri, in quanto a prendere i valori c'è una giovane dottoressa, eppure questo fa stare bene. Ma come fa stare bene? E poi si va solo non per acquistare farmaci o controllare la corretta posologia, ma per avere consigli su come salvaguardare quel magnifico patrimonio che è la salute, per cui in farmacia si va anche per lezioni di make up che spiegano le nuove astuzie del farsi belli, l'analisi della pelle, i rimedi per testare la salute del capello, ma anche sono frequenti veri e propri party organizzati per il lancio di nuove linee di integrazione alimentare di ultima generazione. Nelle farmacie, i party, chi non ha ricevuto mai un invito a un party in una farmacia? Ma insomma, amici del giornale, ma vi rendete conto? La carta costa! 24 mattino. Siamo qua alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la domanda che vogliamo farvi è questa, cari ascoltatori, numero verde 800240024. Quando si parla di tasse, lo Stato non dovrebbe in qualche modo premiare un comportamento dei cittadini che fa risparmiare dei soldi e al contrario punire comportamenti che pesano sulle casse pubbliche? Per qualcuno no, lo Stato non dovrebbe neanche entrare da questo punto di vista a giudicare, ma insomma è un po' la provocazione che ieri ha lanciato l'oncologo Umberto Veronesi, prendendo spunto dal caso delle sigarette elettroniche, una moda che era esplosa qualche mese fa, ora invece è molto in calando perché c'è una tassazione molto forte e quindi molti di questi commercianti chiudono. E dice Veronesi: la sigaretta elettronica salva, secondo uno studio, 30.000 persone l'anno dall'insorgenza di malattie legate al fumo e dunque sgrava lo Stato da spese sanitarie notevoli, fa risparmiare dunque la collettività. Il risultato è che invece lo Stato, dice Veronesi, ha deciso di tassarle in modo pesante. Questo perché? Perché, continua l'accusa di Veronesi, chi passa le sigarette elettroniche non fuma più il tabacco tradizionale, e col tabacco tradizionale lo Stato ci guadagna molto in termini di tasse. Insomma, lo Stato ci guadagna con le sigarette, salvo poi spendere, sempre secondo Veronesi, 3 miliardi di euro l'anno per curare coloro che si ammalano con le sigarette tradizionali, e invece tassa uno strumento tantissimo, uno strumento che insomma fa risparmiare in termini di collettività dei soldi. Perché? Questo è anche il senso della protesta dell'Associazione Nazionale Fumo Elettronico, di cui saluto il presidente Massimiliano Mancini, che è già stato anche nostro ospite. Buongiorno, ben ritrovato Mancini. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, torna con noi, grazie Stagnaro. Insomma, quando parliamo di tasse, non solo di sigarette elettroniche parleremo, ma anche della rivolta fiscale che c'è stata molto spontanea a Torino. Due giorni fa Stagnaro di tasse se ne intende. Non per... Buongiorno, drammaticamente come quasi tutti gli italiani. Sì, esatto, esatto. Allora Mancini, al di là della questione, le sigarette elettroniche fanno bene, fanno meno male, eccetera, il tema è dibattuto, questa è una ricerca di Veronesi, ma studi scientifici, però non è tanto il tema su cui vogliamo entrare, sulle questioni di salute, ma sulla questione della fiscalità. Intanto è vero che molti stanno chiudendo? C'è davvero una crisi del settore? Ma dunque, sicuramente, e questo è quello che sta avvenendo in questa fase di mercato negli ultimi mesi, diciamo che il fenomeno è caratterizzato da vari aspetti. Sicuramente c'è stata una crescita non regolata, disorganizzata, nel momento in cui c'era il boom del prodotto e quindi si è avuta una proliferazione di negozi, e questo in genere in tutti gli schemi economici non è mai giusto, perché poi si configura come bolla. Però è anche vero che il comparto quest'anno è stato oggetto di pesanti attacchi mediatici, per lo più negativi, che hanno da una parte scoraggiato gli utilizzatori e dall'altra parte hanno messo in attesa anche coloro che magari erano pronti o sono pronti ad investire in questa nuova tecnologia, che poi comunque non è una moda ma è il futuro. E ovviamente il discorso di una tassazione così pesante. Ecco, ce la spieghi questa tassazione, cioè che concretamente cosa ha messo lo Stato su come tassazione? Per come è scritta adesso, perché poi ci mancano ancora i decreti attuativi e si capisce poco, sarebbe una tassazione del 59% del prezzo di vendita, quindi il prezzo di vendita è gravato di quasi il 60% di una tassazione, la quale considera anche l'IVA sulla tassa, è estesa praticamente a tutto ciò che ha a che fare con il fumo elettronico, quindi non solo le ricariche, ma anche la sigaretta elettronica, i cavetti di pannellamento, i caricabatterie, e quindi andremmo a più o meno moltiplicare per un 140% il costo attuale dei prodotti che sono in commercio. Ecco, per questi molti commercianti sono in difficoltà, molti anche che erano passati alla sigaretta elettronica ora si fanno i loro conti, dico, ma insomma mi conviene davvero. Però le chiedo, secondo lei c'è che cosa dietro questa volontà del governo? Il fatto, come ha accusato Veronesi, che molti hanno abbandonato il tabacco e quindi facendo mancare allo Stato dei soldi, come dire, maledetti e subito nelle casse, e quindi bisognava in qualche modo stroncare questo nuovo fronte? Sono vari aspetti. Sicuramente da una parte lo Stato ha introiti minori in quanto vende meno sigarette, però la vendita ridotta delle sigarette è in parte, può essere causata dall'avvento della sigaretta elettronica, che comunque più o meno ha preso 1 milione di potenziali fumatori, ma è anche vero che la tassazione eccessiva che è stata applicata sui tabacchi di fatto favorisce il contrabbando, che ormai è il terzo produttore mondiale, quindi le perdite sono lì. Tuttavia i conti che sono stati fatti sono conti proprio disperati, perché una tassazione del genere andrà sostanzialmente ad ammazzare il bimbo nella culla, cioè questo mercato che si sta sviluppando, che sta nascendo, diventerà il futuro, e dove l'Italia sta già esprimendo delle eccellenze e stanno nascendo aziende che esportano nel mondo. E dice questo viene affossato, diciamo. Però mi faccio sentire su questo anche Stagnaro, che stato è uno stato lungimirante quello, se seguiamo la vulgata che abbiamo avuto in questi due giorni, cioè siccome sono calati gli introiti del tabacco tradizionale, allora hanno esteso anche, vogliono estendere la tassa sulla sigaretta elettronica, con il rischio, denuncia il presidente dell'associazione Mancini, che si ammazza il bimbi cool, appunto, si stronca questo nuovo tipologia di impresa. È uno stato lungimirante? Ma a me pare che la logica che sta dietro questo intervento sia la stessa che sta dietro anche una serie di altre manovre, ed è quella di anticipare le entrate e posticipare le uscite. È chiaro che colpendo la sigaretta elettronica si ottiene l'effetto di spingere una parte dei consumatori di sigaretta elettronica che avevano scelto questo strumento per ragioni di prezzo a tornare verso il tabacco tradizionale, legale o di contrabbando che sia. E questo determinerà dei costi sanitari aggiuntivi, come ci si può aspettare, però saranno costi sanitari aggiuntivi tra 10, 20 o 30 anni, laddove il governo oggi sta veramente facendo di tutto per grattare soldi ovunque ci siano. In fondo, se ci pensa, non c'è una grande differenza dal punto di vista della razionalità fiscale tra questo intervento e gli acconti IRES e IRAP superiore al 100%. Ma infatti era questa, cioè, la situazione a cui volevo portarla. Di fondo lo Stato, per anche scelte politiche magari sbagliate del passato, insomma, si ritrova adesso, lo sappiamo, lo leggiamo, a trovare entro 16 dicembre per esempio 2,4 miliardi per scongiurare la seconda rata dell'IMU. E allora uno Stato, che poi sono persone, funzionari che si trovano al Ministero, devono fare i conti della serva, e da qualche parte i soldi li devono recuperare subito, non tra 10 anni, o no, Stagnaro? Sì ma no, cioè sì nel senso che a situazione data è così, no nel senso che la decisione di far saltare la seconda rata dell'IMU, a cui io per inciso ero contrario perché è una delle poche imposte che avrei mantenuto così com'erano, è stata assunta diversi mesi fa, quindi non abbiamo scoperto oggi che ci servono questi 2,5 miliardi, lo sapevamo nel momento in cui si è deciso di far saltare questa seconda rata. E questo ha a che fare con un tema ancora diverso, cioè l'incapacità o la difficoltà della nostra classe politica, anche forse per la condizione particolare in cui si trova a governare, di prendere misure che vadano oltre l'annuncio e che quando vengano realizzate non determinino l'insorgere di problemi che peraltro erano del tutto prevedibili. È chiaro che poi la rincorsa di brevissimo termine dietro delle scadenze che non erano urgenti ma che lasciamo diventare urgenti fa nascere mostri come quello di cui stiamo parlando e come tanti altri. Ma tra l'altro Mancini, è vera, oggi l'Unità dedica un'intera pagina, a pagina 11, su questo tema, il titolo è La tassa sulla salute, e riporta questo dato, vorrei confermarlo con lei: 150 esercizi commerciali dedicati al fenomeno delle sigarette elettroniche sono stati chiusi negli ultimi 3 mesi per via di questo problema. È un dato oggettivo? Ma io credo proprio di sì, e può anche essere che i numeri siano superiori, perché anche circolando per le strade lo vediamo, o clienti vanno da altri negozi dei quali non andavano regolarmente perché il negozio di fiducia ha chiuso. È ovvio, come dicevo prima, nel momento di bolla è ovvio che sul mercato arriva un po' di tutto, quindi ci sono magari, diciamo, possiamo dire imprenditori o esercenti preparati, quelli un po' meno. Quindi questo ci quindi può qualcuno aiutare. Magari avrà chiuso anche perché si era buttato in un'avventura che non conosceva fino in fondo. Sì, cioè, ecco, diciamo, questo è un po' fisiologico in ogni mercato che sta nascendo. Tuttavia adesso lo spauracchio è notevole e soprattutto è estremamente pericoloso, perché la facilità di comprare questi prodotti via internet, come poi il mercato si è sviluppato finora, è notevole. Conseguentemente il consumatore italiano che si troverà un prodotto che gli costerà più del doppio non è che farà tanti pensieri, lo ordinerà tranquillamente da un sito francese o rumeno, polacco, inglese o quello che vorrà. Quindi è veramente una tassa studiata male e molto perniciosa per il sistema, perché manca una visione da statista in queste cose qui, perché vogliamo tassare una nuova tecnologia, un nuovo prodotto, ci sta, però la tassazione dovrebbe essere introdotta gradualmente, soprattutto quando un mercato si sta sviluppando, quando abbiamo creato una base economica tale e sufficiente che possa sostenere questa tassazione. E queste cose stanno avvenendo in un paese, e mi permetto di sottolineare, si sta impoverendo da un punto di vista industriale. I dati solo dell'anno scorso che ho visto sono preoccupanti, cioè faccio un esempio rapido, 30.000 aziende italiane operano in Romania, solo l'anno scorso nel Canton Ticino 6.000 aziende italiane hanno rilocato, quindi il paese è... Si dovrebbe dire premiare anche dei settori che sono in via di sviluppo. Tra l'altro ci scrive via sms un ascoltatore, io non lo so perché non fumo, ma comunque il dato è questo: un pacchetto di sigarette a New York costa $16, ma addirittura $16 mi sembra uno stato etico. È la politica di Bloomberg. Certo, uno stato etico indirizza il comportamento dei cittadini in questo modo, ci scrive l'ascoltatore. Mi scusi se interrompo, sono tornato recentemente da New York, i newyorkesi vanno in New Jersey a comprare sigarette, non le pagano $16. Questa cosa non la sapevo, effettivamente è molto molto pesante. A proposito di tasse, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi ripartiamo, ci raggiungerà anche un ospite, perché mi ha molto colpito due giorni fa quando a Torino abbiamo letto che dei commercianti, con una sorta di protesta spontanea nata perché hanno scoperto che la tassa dei rifiuti, l'hanno scoperto adesso a ottobre quest'anno, si pagherà il 20% in più rispetto all'anno scorso, e oggi il sindaco di Torino Fassino si difende sulla stampa dicendo: ma anche noi sindaci di comuni siamo le vittime perché Roma non ci dice niente, e quindi abbiamo deciso solo adesso potevamo indirizzare bene e sapere i dati di quanto far pagare della TARES. Però questi commercianti infuriati hanno detto: basta, ci stanno strozzando con le tasse. Sono partiti in una sorta di protesta, di rivolta fiscale, hanno bloccato addirittura per qualche ora i binari dell'alta velocità a Torino. Ecco, questa è la situazione di esasperazione in alcuni settori del paese, tra poco ne parliamo. Ricordo anche il numero verde 800 24 00 24. 24 mattino. Allora, stiamo parlando di tasse sulle sigarette elettroniche, ma non solo. 8:36, 800 24 00 24. Tra poco saluto anche un altro ospite che ci ha raggiunto insieme a Massimiliano Mancini, che è presidente dell'Associazione Nazionale Fumo Elettronico, insieme a Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Prima due ascoltatori. Francesco dalla provincia di Lucca, buongiorno Francesco. Alessandro, complimenti, perché è un'ottima trasmissione. Dica. Io sono un medico e mi occupo da tanti anni di centri antifumo. E sì, volevo dire questo, diciamo, l'impostazione di base della trasmissione nasconde un pochino involontariamente, chiaramente, il concetto di fondo, che quanto si mette sul mercato, un prodotto che in qualche maniera deve avere un effetto sulla salute, questo prodotto deve essere testato dopo, in anni di studi comparativi. Altrimenti si introduce un prodotto di cui non si sanno gli effetti, magari nel lungo periodo. Ci sono poi sigarette elettroniche, sono di tanti tipi, sì, non si sa neanche spesso cosa contengono, alcune contengono addirittura il polietilene glicol, che è l'antirefrigerante che si accende l'automobile. Però mi scusi Francesco, cioè il programma come impostazione, come ho detto all'inizio, non è tanto sulla questione di salute. Peraltro ieri il professor Veronesi ha detto la sigaretta elettronica, non che faccia bene, nel senso che uno respira la sigaretta elettronica, svapa ed è felice e contento per quel che riguarda i polmoni, ma rispetto al tabacco normale, dice il professor Veronesi, fa meno danni. E nonostante ciò il governo lo tassa. Ecco, questo Francesco era l'impostazione più fiscale che di salute. Dica. Non è così la realtà. Il professor Veronesi ha fatto uno studio pilota, ma su poche decine di persone, è molto breve. Quello che conta è sapere cosa accade nel tempo. Se uno vuole introdurre un prodotto sul mercato deve avere degli studi lunghi. La posizione ufficiale della OMS, anche degli etimologi italiani, è che non c'è nessuna... Ripeto Francesco, io non dibatto dal punto di vista della salute, le chiedo allora, uscendo un po' dal suo ruolo di medico, le sembra giusto che uno Stato, siccome non guadagna più quanto guadagnava prima col tabacco tradizionale, che su questo siamo tutti d'accordo fa male alla salute, va a colpire un settore che ha tolto un po' di soldi allo Stato, perché molti hanno abbandonato la sigaretta per la sigaretta elettronica, va a colpirlo fiscalmente? Le sembra normale? No, ma se mi faceva arrivare alla conclusione, sì, spiego la mia posizione. Ecco, dica. Qual è l'alternativa in questo caso? Impedire la commercializzazione del prodotto fino alla fine degli studi. Questo sarebbe ancora peggio. Allora, accettiamo una situazione intermedia. Lo Stato colpisca con le tasse, magari meno, questo non sono un economista, quindi non posso certo intervenire. Sì. E commercializziamo il prodotto facendo contemporaneamente studi adeguati con tantissime migliaia di persone per vedere se hanno ragione. Se ha ragione, a quel punto si può anche richiedere le tasse indietro. perché avevamo introdotto sul mercato un prodotto efficace. È uno Stato che chiede l'età, che dà le tasse indietro, io l'ho visto raramente, soprattutto in Italia. Comunque la ringrazio, Francesco. Andrei a Roma da Germano. Buongiorno, Germano. Buongiorno. Vabbè, a parte che mi lascia un po' perpresso l'intervento dell'ascoltatore precedente, però volevo dire questo, oltre alla sigaretta elettronica è stato inserito in particolare da Brunetta e da Galan, perché questo riporta nei giornali, una tassazione che dovrà essere approvata insieme a quella definitiva della sigaretta elettronica sulle cartine e sui filtri del 58%. Ora, quindi dice anche sul tabacco tradizionale. Sì, no, praticamente che cosa dicono? Dicono che, si immagina un po' che giustificazione, dicono che siccome i giovani utilizzano molto le cartine e i filtri per farsi le sigarette, introdurranno questa tassa e poi utilizzeranno questi soldi della tassa per ristrutturare le scuole. Ora, sta cosa fa ridere tutti, è ovvio. Però io dietro questa tassazione sia sulla sigaretta e sulle cartine e sui filtri vedo un forte interesse per lo Stato che se ne frega totalmente del cittadino. Insomma, il tassare, adesso io non so questo provvedimento, mi risulta strano, nel senso che so che per esempio era stata fatta la proposta di tassare gli alcolici per finanziare le scuole, e so che su questo Galan, che lei ha citato, è molto contrario, si è anche dimesso da relatore per questa vicenda. Comunque, Germano, la ringrazio per la segnalazione. Allora, Stagnaro, le presento Giancarlo Nardozzi. Buongiorno Nardozzi, benvenuto. Buongiorno. Lei è cos'è, un ambulante? Che lavoro fa a Torino? Sono un ambulante, ho un banco di non alimentari, detersivi, casalinghi. Quindi fa il mercato, diciamo, un ambulante. Certo, allora, un ambulante da 30 anni. È uno di coloro che 2-3 giorni fa, insomma, in una forma un po' spontanea, di colpo, vi siete arrabbiati, siete andati fino, per una questione ovviamente di lotta alle tasse, avete scoperto che la TARES costerà quest'anno quanto di più al Comune di Torino? Si parla di un 20% in più, però su cifre già abnormi. Guardi che tra l'altro il sindaco Fassino, oggi glielo segnalo, non avrà visto, fa un'intervista alla stampa, pagina 3, e conferma, dice costerà 20% in più. Perché l'abbiamo scoperto solo a ottobre? Perché dice anche noi sindaci siamo vittime di Roma che non ci dà certezze, e quindi l'abbiamo determinato solo adesso. La verità è che lei dice le vittime vere siamo noi, e avete occupato addirittura i binari dell'alta velocità. Perché questa forma di protesta anche molto estrema? Ma guardi, io le spiego, a parte non è stata una manifestazione improvvisa, perché noi come Goia abbiamo già fatto, a parte siamo alla 18ª manifestazione. Goia, spieghiamola, cos'è? Gruppo organizzato, Goia, indipendente, gruppo organizzato ambulante. Indipendente ambulante. Ci stiamo eradicando anche in tutta Italia, basta andare a vedere su internet. Però quello che dico, noi a maggio per la TARES avevamo già fatto una manifestazione. Siamo un gruppo riconosciuto, abbiamo partecipato ai tavoli, dove non c'è stato nessun margine di trattativa. E perché occupare i binari? No, allora, ieri siamo partiti da Porta Palazzo, che è il mercato più grande di Torino, siamo arrivati davanti al comune, dove ci si è infondata la protesta, e ci aspettavamo che qualcuno scendesse comunque a chiarire o a dire qualcosa. Sì, dopodiché però, nessuno... Sì, va bene, ma non mi faccia la cronistoria, però perché, ripeto, perché alla fine siete arrivati per esasperazione addirittura a occupare i binari dell'alta velocità? Perché non ci sono risposte. Lì la stazione era vicina, la gente era disperata, è stata una cosa... un gesto esasperante, via, perché no, se non sei ascoltato fai anche i gesti così. No, ma tra l'altro Stagnaro, l'avrà visto sulla stampa, insomma ieri la stampa titolava prime prove di rivolta fiscale, cioè siamo addirittura a rischio, Stagnaro, di questo tipo di situazione in Italia. Io credo che siamo senza dubbio in una condizione nella quale il giocattolo è sull'orlo della rottura, ammesso che non si sia già rotto, nel senso che è venuta del tutto meno la residua lealtà reciproca tra l'amministrazione e il contribuente. Tutti parliamo, giustamente, condanniamo l'aspetto della riscossione, che spesso ha dei tratti, come dire, non del tutto compatibili con quello che uno si aspetterebbe in un paese civile, ma a monte della riscossione c'è un'amministrazione fiscale e un diritto tributario che è del tutto inconoscibile. Come faccio io a essere corretto verso lo Stato se oggi non so se entro la fine del 2013 dovrò pagare la seconda rata dell'IMU? Come faccio a pianificare un investimento e a condurre un'attività imprenditoriale che è ovviamente soggetta a una serie di rischi se non ho la minima idea di quale sarà il regime fiscale a cui sarò soggettato, e soprattutto se do tranquillamente per scontato ex ante che il regime fiscale a cui sarò soggettato sarà del tutto privo di razionalità e quindi, come dire, del tutto casuale? Cioè, uno si sveglia la mattina, apre il giornale e scopre che servivano 400 milioni per le scuole, non sapevano dove pigliarli, sì, hanno messo la tassa sulla birra, anzi no sulle cartine, anzi no sul tabacco, anzi no sulla sigaretta elettronica, anzi no su questo, sì, su no, l'idea è proprio di un andamento così di piccolo cabotaggio, a dire oddio, adesso ci svegliamo, servono queste cose. In realtà io non voglio pensare, Stagnaro, che ci sia questa così pressapochismo. In realtà le cose si sanno, forse, e allora che cosa manca? Una pianificazione più seria? Io credo che manchi coraggio politico. Manca coraggio politico nel senso che si decide, per stare all'esempio di prima, di tagliare la seconda rata dell'IMU. Per tagliare la seconda rata dell'IMU bisogna trovare 2 miliardi e mezzo, o attraverso maggiori tasse da qualche parte, o attraverso minori spese da qualche altra parte. Dice, ma bisogna saperlo subito, nel momento in cui si taglia uno deve già sapere dove si vanno a pescare questi soldi. Se io so che vado o a tagliare una spesa o ad aumentare un'altra tassa, so anche che sto scontentando qualcuno. E se sono un politico coraggioso me ne prendo la responsabilità. Se sono un politico poco coraggioso scarico la responsabilità sull'amministrazione che produce, non potendo decidere e non essendo giustamente non potendo essere responsabile delle decisioni, produce la ridda di ipotesi. No, ma infatti io, e ripartiamo da qui dopo il traffico, leggete l'intervista di oggi del sindaco Fassino, che è anche presidente di tutti i comuni italiani, il sindaco di Torino, sulla Stampa, pagina 3, dice ma ci sono tante leggi, tanti decreti in Italia, uno ogni 20 giorni per modificare la fiscalità, e poi Roma ci ha abbandonato, abbiamo solo potuto adesso determinare a ottobre che la tassa dei rifiuti quest'anno costerà il 20% in più, cioè praticamente l'anno è finito e nell'anno in corso stabiliscono questo. Va bene, cioè tutto un problema, è un problema con Roma, è un problema con i comuni, ma alla fine chi paga, il, come dire, il contribuente finale chi è? Noi, i cittadini, come sempre, il traffico. Eccoci qua, 8 e 49 minuti. Allora vorrei chiedere a Nardozzi e poi a Mancini. Nardozzi, ambulante del Goia, gruppo organizzato indipendenti ambulanti, e cosa farete? Avete in mente di fare qualche altro tipo di protesta? Io vorrei solo dire una cosa su riguardo al coraggio dei politici, no? I politici coraggio non gli interessa averne, visto che prendono stipendi miliardari e non possono capire l'esasperazione che c'ha la cittadinanza, le microimprese che non ce la fanno più. Vanno sempre sottotono i suicidi, vanno sempre sottotono le chiusure che ci sono in continuazione, perché se venite a Torino tutte le serande, quasi tutte le serande sono abbassate. È logico che loro si vede perfettamente, non se ne rende conto. Abbiamo una tassazione del 75%. In più si aggiungono le tasse, si aggiunge la TARES, se si aggiunge quello, la gente chiude e poi si arriva all'esasperazione a portare. A portare a questi gesti. Tra l'altro, Nardozzi, voi. Però cos'è addirittura una? È un po' un'istigazione a delinquere da parte loro, è questa la verità. Nardozzi, però voi vi siete trovati, Nardozzi, in una situazione paradossale nella quale poi fate la battaglia con altre persone, in questo caso i pendolari, che si sono molto arrabbiati con voi perché dice vabbè, ma perché se voi avete... Guardi, non è così, a parte uno o due persone, tanta gente ci dava solidarietà. Io spero che oggi vi telefono, venivano, facevano, avete ragione. Noi aspettiamo, tutti i nostri clienti ci hanno dato ragione, perché c'è esasperazione anche tra la cittadinanza. È inutile girarla così. Non è vero che la polizia ci ha attaccato, come hanno scritto sui giornali, anzi, poverini, ci sono stati vicino e hanno fatto il loro lavoro professionale. Qua bisogna lanciare questo messaggio ai nostri signori politici, che gli italiani in generale non ce la fanno più. E poi c'è chi urla più forte, c'è chi più urla di meno, tutto lì. Mancini, voi avete in mente di fare qualche tipo, spesso si parla di attività di lobbying, immagino che anche voi avrete dei contatti con la politica per cercare di non far passare questa tassazione molto alta sulle sigarette elettroniche. Avete in mente qualche tipo di manifestazione anche magari così molto passionale e clamorosa come quella degli ambulanti di Torino? Dunque, noi una manifestazione l'abbiamo fatta pochi mesi fa e ha avuto un discreto successo ed è stata fatta appunto per sensibilizzare il governo su questo aspetto. E ovviamente lavoriamo anche nelle relazioni istituzionali per portare il messaggio e per far capire quali sono le specificità di questo mercato e quali possono essere gli errori che sono stati attualmente introdotti. Questo è un lavoro importante perché molto spesso chi le cifra non sempre conosce esattamente quello su cui va a legiferare. Quindi ci si sta dando ovviamente molto da fare, però è un processo lungo, difficile, anche perché le forze in campo sono tante. E l'Italia è un paese di corporativismo e ci sono interessi contrapposti ovviamente che remano conto. Come dicevo prima, purtroppo in Italia manca una visione organica, una visione da statisti di quello che è il bene del paese e siamo qui praticamente a fare le battaglie crepuscolari per i piccoli comparti, quando qui abbiamo un paziente che è profondamente malato e si continua solo a metterci sopra i cerotti. Bisogna fare un cambio di paradigma completo, cioè ridare l'orgoglio a questo paese, orgoglio che sta venendo a mancare. Io come imprenditore vedo spesso, quando sono all'estero, il Made in Italy è portato a palmo di mano, si vedono i nostri prodotti nei negozi e sono prodotti di eccellenza. Poi dice in Italia invece... In Italia e uno dice, ma abbiamo un sistema, cioè in Italia non abbiamo un sistema che ci sostiene nel produrre, nel creare, nel fare bene, abbiamo un sistema che fa di tutto per farci odiare questo paese. È triste, è veramente triste, perché siamo un popolo, siamo un paese che può veramente fare cose fantastiche, meravigliose, ma sì, il nostro sistema non funziona, è facile, è reso difficile attraverso l'inizio. Stagnaro, l'idea ci ha fatto capire Nardozzi, ambulante a Torino, è che la politica sia molto sorda. Non vorrei cadere in questo luogo comune, poi ci danno dei populisti, dei demagoghi, ma l'idea è proprio questa: non si sa se sia sorda, non si sa se sia impossibilitata a fare per misteriosi motivi, adesso che c'è il governo larghe intese, quello che i cittadini chiedono di fare. Ma perché c'è questo scollamento per cui c'è un paese, e questa è solo l'ultima testimonianza, da mesi si dice, di persone che non ce la fanno più, eppure non si riesce a uscire da questo circolo vizioso? Beh, questa è una domanda che dovrebbe fare un esorcista, e se non a un esorcista, a uno studioso di dinamiche istituzionali. Certamente io credo che la legge elettorale abbia un ruolo in tutto questo. Io sfido chiunque a dire chi è il parlamentare rappresentante del suo collegio. Una volta lo sapevamo e se lo incontravamo per la strada Perché doveva essere poi rieletto, almeno quando doveva essere rieletto lo incontravamo, ecco. Non solo lo incontravamo, i partiti che lo candidavano dovevano dire che lo candidavano, o per raccogliere le preferenze, o meglio ancora quando c'era il maggioritario, e quindi, come dire, c'era un maggior senso di responsabilità e anche di contributo che il parlamentare poteva dare al processo politico. Oggi no, tant'è che il Parlamento oggi sostanzialmente non esiste dal punto di vista della produzione normativa. Tutto quello che succede, succede perché arriva dal governo. Questa probabilmente è una parte della spiegazione, ma sarebbe ingenuo onestamente credere che questo rappresenti tutta la spiegazione. No, chiaro. Lei Nardozzi lo conosce, il rappresentante politico del suo collegio? Il politico? Ma guardi, noi abbiamo tenuto fuori tutta la politica e d'ora in avanti non verranno più a farci la pubblicità nei mercati. Questo lo può garantire. Perché guardi, non c'è nessuno più, come diceva bene il signore, non c'è nessuno più che ci rappresenti. Io tante volte, parlando con il collega, dico: questi signori se ne devono andare via, facciamo tornare i nostri ragazzi che vanno all'estero, laureati, le casalinghe, mettiamo loro a fare i conti. Addirittura loro a fare i conti, va bene. Io intanto vi ringrazio e ci ritroviamo, l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6.30 con 24 Mattino, state con noi. Basta tasse, basta tasse, basta tasse. 24 mattino.